folla di ignari, morta nella ragione, strani casi, ecco canzoni, il nano si scusa, nel contempo vengono, scende le scale, si sale del mento, ma se è andata via, con ali di fata, mani di vino, strana di prima, pronta ancora, sotto la, verso il consiglio. Thank you.